L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Per introdurre la puntata di oggi dell'ottavo giorno mi affido ad un editoriale molto bello sulla Stampa di mercoledì a firma di Michele Ainis, noto costituzionalista. Secondo Ainis, leggo testualmente, l'Italia è una palude, uno stagno di acque limacciose in cui siamo immersi fino al collo. E poi naturalmente Ainis articola il suo ragionamento, dice insomma che basta leggere le inchieste di questi mesi, di questi giorni, per trovarci dentro praticamente tutti, i politici naturalmente in primo piano, ma anche imprenditori, magistrati, giudici, forze dell'ordine, direttori delle ASL, anche persino uomini di chiesa. Insomma, la conclusione di Ainis è drammatica, perché dice che l'Italia è un paese senza ricambio nelle classi dirigenti, con una lunga lista purtroppo di riforme mancate, che poi sono quelle che invece ci potrebbero salvare, tirar fuori dalla palude. Cari ascoltatori, che ne pensate? Aspetto le vostre opinioni. La nostra mail la conoscete, ottavogiorno@radio24.it. forse Ainis è stato un po' troppo cupo, magari il tono da moderno Savonarola non sarà piaciuto a tutti voi, però insomma il tema è caldo e importante. In questa palude ci caleremo tra poco, perché rivisitando le notizie più importanti degli ultimi 7 giorni ci fermeremo per forza a lungo sulla P3, sulle dimissioni di Cosentino, sugli oltre 300 arresti che hanno colpito l'Ndrangheta in Lombardia. Prima però due notizie che arrivano dall'estero, in realtà non molto lontano da casa nostra, dalla nostra Italia. Lunedì la Svizzera restituisce la piena libertà a Roman Polanski, mentre martedì l'Assemblea Nazionale Francese, alla vigilia peraltro delle celebrazioni del 14 luglio della presa della Bastiglia, ha votato la cosiddetta legge anti-burka. Nessun nesso naturalmente tra le due notizie, se non il fatto che sono entrambe molto controverse, discusse e discutibili. E allora cominciamo la rassegna dei servizi, riascoltiamo Lino Terlizzi e Nicola Accardo. La Svizzera ha deciso di non estradare negli Stati Uniti Roman Polanski, il regista franco-polacco accusato oltreoceano di aver abusato sessualmente di una tredicenne nel 1977. Polanski, 76 anni, era stato arrestato nel settembre del 2009 a Zurigo sulla base di un mandato di cattura americano del 2005. Dal 4 dicembre il regista era agli arresti domiciliari nel suo chalet di Gstaad con braccialetto elettronico. Polanski aveva anche dovuto versare una cauzione di circa 3,4 milioni di euro. Due motivi del no elvetico. Il primo è che il Dipartimento americano di giustizia non ha trasmesso alla Svizzera il verbale con le dichiarazioni del pubblico ministero che negli anni 70 si era occupato del caso e che, secondo gli avvocati di Polanski, aveva affermato che i 42 giorni scontati all'epoca dal regista in un reparto psichiatrico rappresentavano la pena complessiva. Il secondo motivo è che Polanski ha acquistato lo chalet di Gstaad già nel 2006 e che vi ha soggiornato nel corso degli anni senza che le autorità USA avessero mai presentato una domanda formale di estradizione. Dubbi giuridici, insomma, che non assolvono Polanski ma ne consigliano la liberazione, secondo il Ministero svizzero di giustizia. Siamo delusi, continueremo a cercare giustizia, ha affermato il Dipartimento americano di Stato. Dopo il Belgio anche la Francia adotta una legge che impone il divieto generale di portare il burka o il niqab nei luoghi pubblici dove è necessaria l'identificazione, ma anche per strada e nelle piazze. Ieri è arrivato il sì alla legge da parte dell'Assemblea nazionale e ora manca solo l'approvazione del Senato, prevista a settembre. Ma mentre il Belgio in aprile non faceva specifico riferimento al burka, ma a tutti gli indumenti che coprono integralmente il volto, la legge voluta dal presidente Sarkozy prende di mira il velo integrale imposto dal salafismo e punisce anche chi costringe le donne ad indossarlo. Nei primi 6 mesi chi infrange la legge dovrà fare un percorso di educazione civica, poi partiranno le multe da 150 euro. Per i mariti despoti invece la sanzione arriva a 30.000 euro e prevede fino a un anno di carcere. La legge francese ora va incontro però a un rischio giuridico. Sia il Consiglio di Stato che il Consiglio d'Europa avevano infatti avvisato: un divieto generalizzato del burka può andare contro i diritti umani. Due postilli a corredo dei servizi che abbiamo appena riascoltato. Su Polanski, prima di tutto, a me va benissimo che sia tornato libero. Polanski era e rimane un grandissimo regista, a patto però che non passi l'idea che, siccome Polanski, siccome è un genio, può essere considerato al di sopra della legge, specie davanti ad una violenza sessuale, per di più nei confronti di una minore. Quindi, per carità, non creiamo un lodo Polanski. Sul burka invece qui si apre un discorso infinito sull'integrazione, tema cruciale per il presente e soprattutto il futuro dell'Europa. in questi anni abbiamo visto tanti modelli di integrazione, inclusivi, esclusivi, più o meno tolleranti, più o meno multiculturali, tutti prima o poi hanno mostrato in parte delle imperfezioni, hanno mostrato la corda. Io non so se questa legge francese sia la risposta giusta, è probabile però che verrà giudicata incostituzionale, quindi il problema rimane aperto e per ora irrisolto. L'ottavo giorno. Iniziamo allora la discesa nella palude, nello stagno italiano di cui ha parlato Michele Ainis, che abbiamo citato prima della pausa. Adesso accanto a me, nell'acqua di questa palude italiana, c'è Roberto Galullo. Buongiorno Roberto. Buongiorno a voi. Giornalista del Sole 24 Ore, voce familiare qui a Radio 24, perché tutte le mattine chi si sveglia presto alle 6.45 lo sente in un abuso al giorno, toglie il codice d'intorno, e poi ha un blog cliccatissimo sia sul sito del Sole che della radio, Guardie e Ladri. Credo che il tema di oggi in qualche modo rientri un po' nel contesto di questo blog. Da quant'è che segui le faccende di 'Ndrangheta? Ormai sono 5 anni come inviato del Sole. In realtà è sempre stata una passione quella di seguire l'economia criminale anche prima. E nello specifico 'Ndrangheta a Milano e Lombardia? Lo stesso 5 anni. Più o meno sì, perché direi che il tema è caldo da anni a Milano. Allora, martedì c'è stata una delle notizie più importanti, secondo me la più importante, la più grossa della settimana, al di là poi di tutte le beghe politiche di cui parleremo più avanti, perché viene finalizzata una maxi operazione che dura anche quella non da 5 anni ma quasi. No, sono 2 anni e mezzo, 3 anni buoni di inchiesta, di indagine, più altri aspetti che erano stati precedentemente svolti. Quindi tutto fuorché casuale quello che è successo. Martedì parliamo di un'operazione anche plateale, clamorosa, con più di 300 arresti. Credo che passerà alla storia, perché se non altro modifica la percezione non solo geografica di questa 'Ndrangheta, che in pochi ancora conoscono come la mafia, la camorra, ma è forse ancora più pericolosa. Sentiamo allora il servizio di mercoledì mattina nel GR delle 7 di Raffaella Calandra e poi naturalmente l'analisi con Roberto Galullo. 3 mandamenti per un unico vertice, la provincia. È quella svolta che c'è stata quando Giovanni Falcone, sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, poté acquisire questo dato. Come fu allora per Cosa Nostra, ricorda il procuratore nazionale Grasso, oggi è l'inchiesta sull'asse Milano-Reggio Calabria a svelare il volto della 'Ndrangheta, tra riti, matrimoni e santuari come quello della Madonna di Polsi, dove decidere nomine e affari, perché prima di tutto devi essere a posto col tuo paese, declama un boss in un'intercettazione, una regola che la casa madre riaffermò in Lombardia sul suo esercito di 500 uomini, uccidendo quel boss Novella che aveva tentato slanci di autonomia. Al suo posto, per alzata di mano, fu eletto grammastro tale Zappia. La Calabria decide e patti e prescrizioni valgono per tutti, declama uno dei fondatori della costola meneghina, Neri, lo stesso che convogliava i voti delle cosche sul deputato Abelli del PDL, o che, come scrivono i magistrati, gestiva i rapporti con politici locali o uomini influenti, come il direttore sanitario dell'ASL di Pavia, Chiriaco, al centro di un giro di buste chiuse con soldi per comprare le preferenze. La 'Ndrangheta dunque mette le mani sulla sanità e si prepara agli appalti dell'Expo. Lo ammette lo stesso boss Strangio. Il primo lavoro, dice, al 99% lo prende la Perego. È una società con la funzione di mantenere 150 famiglie calabresi, scrive il GIP. Ma al libro paga delle cosche c'erano anche le talpe per le soffiate sull'inchiesta, ma quando scoprono che c'è anche Ilda Boccassini, stavolta, si dicono, non la scampiamo. Solo un breve accenno sulla Perego, perché ha trasferito a Milano tutta la storia di Gomorra e dei rifiuti tossici, perché la Perego era coinvolta in uno smaltimento poco virtuoso di rifiuti tossici anche nella Lombardia, nella Milano, un tempo capitale morale del paese. Sempre Roberto Galullo in nostra compagnia qui all'ottavo giorno. Io vorrei partire da due cose che hai scritto tra il sito di Radio 24 e naturalmente il giornale, in questi giorni per te credo concitati di lavoro. Da un lato hai precisato che sembra una cosa alla palissiana, ma non è così, si tratta di un'operazione partita da Milano e andata a Reggio Calabria e non viceversa, quindi non è solo una mera questione di geografia. Certo. E la seconda, hai parlato in maniera un po' beffarda, ma mi sembra puntuale la tua osservazione, di federalismo criminale. Sì, effettivamente è proprio così, perché la novità di questa inchiesta, la novità dico per la massa, per la gente che non era abituato a questo tipo di indagini, è fondamentalmente questa, cioè c'è la certificazione che oramai la Lombardia è autonoma nelle decisioni che prende. Autonomo non vuol dire indipendente, vuol dire che c'è un cordone ombelicale che esiste tra la 'Ndrangheta calabro-lombarda e la 'Ndrangheta calabrese. Quello che quindi scopre questa inchiesta è che i tentativi di indipendenza continuando con questa allegoria secessionistica o federativa, quel sogno di indipendenza di Carmelo Novello è stato stroncato sul nascere, mentre invece resiste l'autonomia, che non vuol dire appunto che le decisioni vengono prese in proprio, ma vuol dire coordinate, scelte con la madrepatria calabrese, perché non dobbiamo dimenticare che in Lombardia si riproducono gli stessi identici meccanismi che si riproducono in Calabria, né più né meno. E non a caso il procuratore di Reggio Pignatone ha detto che quella milanese, lombarda, è la filiazione estera, tra virgolette, più grossa che ha l'Andrangheta, che naturalmente è ormai sparsa in tutto il mondo. Si parla di circa 500 affiliati, correggimi se sbaglio, e poi sullo sfondo, neanche tanto sullo sfondo, c'è una torta, forse la più gustosa che c'è in Italia in questo momento, c'è quella dell'Expo 2015. Assolutamente, anche da questo punto di vista l'Andrangheta è andata molto più velocemente dello Stato, cioè quando lo Stato continuava a parlare, probabilmente continua a parlare con le istituzioni, vale a dire la Regione e il Comune, di Expo 2015, questa enorme esposizione mondiale, la criminalità organizzata si è in realtà già attrezzata. Come? È dentro la politica. Assolutamente dentro la politica, ma anche con degli omicidi eccellenti, perché non dobbiamo mai dimenticare che gli omicidi che vengono effettuati di 'ndrangheta in qualunque territorio dello Stato non sono mai fini a se stessi, ma sono sempre soltanto conseguenziali ad uno spartimento di una torta economica. Alla criminalità organizzata interessa solo ed esclusivamente il business. Per raggiungere quello scopo sono pronti a tutti. L'omicidio rientra in questi obiettivi? Assolutamente sì. Il secondo obiettivo è quello a quale tu facevi cenno, la politica. Oramai 'ndrangheta è politica, Camorra è politica, Cosa Nostra è politica, sono un tutt'uno, vale a dire ci sono ramificazioni ormai consolidate all'interno della politica, e quindi la politica a sua volta è penetrata dalla criminalità organizzata, ma deve renderne conto, quindi deve dare qualcosa. Il prossimo passo sarà sciogliere per associazioni mafiose i comuni nel Lombardo. Allora, questo forse è... Un eccesso, forse. No, non è un eccesso. Sicuramente si arriverà a questo. Io dico che è un passaggio verosimile questo. Non ci dimentichiamo che il primo comune sciolto per mafia al nord fu nel 1993 Bardonecchia, in provincia di Torino. Mi sembra di rivedere lo stesso scenario. E oggi, mentre io e te parliamo, c'è un altro comune, sempre nel nord, nella ricca Liguria, Bordighera, che sembra, dobbiamo usare il condizionale perché certo, c'è stata una non ci sono esattamente prove, c'è stata una richiesta di scioglimento del consiglio comunale per le forti infiltrazioni che sembrerebbero esserci all'interno del consiglio. Quindi tu mi chiedi, si potrà arrivare anche a sciogliere consigli comunali in Lombardia? Secondo me è verosimile questo scenario. Ci sono molti comuni che sono infiltrati. Noi abbiamo questa inchiesta, ma anche alcune inchieste precedenti, ma proprio della scorsa settimana, sempre di Ilda Boccassini, che testimoniano il tentativo di avvicinare alcuni assessori comunali dei comuni della cerchia di Milano, laddove ci saranno i servizi, il terziario e anche delle grandi opere in vista di Expo 2015. Roberto, mi racconti in un minuto la storia dell'Andrangheta lombarda, che ormai ha una storia di 40 anni. Guarda, è semplicissima. Sono 40 anni almeno di infiltrazioni che nascono con una legge sciagurata, la legge che ha portato al confino, fuori della regione di appartenenza, capimandamento, capibastoni, mafiosi di ogni risma in giro per l'Italia. La Lombardia è chiaramente stata una delle mete privilegiate. La regione più ricca è lì. Hanno, come dicevo prima, quindi chiudiamo il cerchio, riprodotto gli stessi identici meccanismi economici e sociali. Ed ecco che ci troviamo. E quindi a questo i punto. Soldi che arrivano, non so, dal traffico della cocaina insieme ai colombiani, poi vengono riciclati. Assolutamente. In tante operazioni sulla carta virtuose certo. In Lombardia. Vengono riciclati al nord. Tu citavi la Lombardia. Io mi permetto di dire che una situazione tragica quanto quella lombarda, noi oggi la viviamo in Emilia-Romagna. Ci sono dei paesi che sono completamente dominati dall''ndrangheta, in cui le elezioni, i candidati si decidono non in Emilia-Romagna, ma si decidono in Calabria. Prima o poi si arriverà anche a parlare di questo. Allora, un altro contributo prima di chiudere la questione, in realtà inesauribile, sull''ndrangheta alla nord e in Lombardia. Sentiamo il sindaco Letizia Morati, sindaco di Milano, che è stato intercettato martedì da Giuseppe Cruciani della Zanzara. Questo è un frammento riportato nei GR della mattina successiva. Io ringrazio le forze dell'ordine che hanno effettuato un'operazione importantissima per la città di Milano, per darci la serenità di avviare i lavori Expo senza l'ombra o la minaccia dell'Ndrangheta. È inevitabile che ci sia un'attenzione da parte dell'Ndrangheta, che sappiamo ci sono purtroppo anche certo, su avvenimenti di questo tipo. Fondi e appalti eccetera, purtroppo certo che l'attenzione c'è, ed è per questo che ho chiesto al governo di avere una commissione che vigilasse sugli appalti, che ci desse la possibilità. Colgo l'occasione per dire che noi su questo fronte, come Comune di Milano, stiamo lavorando con la prefettura in maniera molto intensa, e negli ultimi anni sono state sequestrate beni alla mafia a Milano significativi, oltre 80 immobili che noi abbiamo preso in carico come comune. Siamo uno dei primi comuni che ci siamo presi in carico degli immobili sequestrati alla mafia, quindi tra l'altro è un carico anche gravoso, perché ci prendiamo a casa anche ipoteche e altre problematiche ovviamente. Un ultimo flash con Roberto Galullo, collega del Sole 24 Ore. Stiamo parlando di 'Ndrangheta in Lombardia dopo la maxi retata dei giorni scorsi. Un commento sulle parole della Moratti: pensando all'Expo, che ormai è domani, perché il 2015 è veramente prossimo, Expo che già naviga in acque un po' torbide dopo tutto il caos con Stanca e quant'altro. Ma il mio commento vuole prescindere dalle dichiarazioni del sindaco Moratti, perché ci fosse stato un altro sindaco di un altro colore politico, probabilmente le dichiarazioni sarebbero state le stesse. Io dico che la politica in generale, nazionale e locale, è abilissima a cavalcare l'onda nel momento in cui l'onda ti porta lontano e ti porta, come dire, a degli approdi sicuri. A me piacerebbe una politica che invece fosse pronta a denunciare, ad espellere i corpi impuri e insani nel momento in cui questi si formano, ed è in grado di sapere quando si formano ed è in grado di espellerli. Questo mi aspetto dalla politica. Ultima domanda tendenziosa, ti chiedo un flash: quanto hanno inciso le intercettazioni in questa inchiesta? Ah beh, tantissimo. Quando le intercettazioni sono queste, lunga vita alle intercettazioni. Grazie allora a Roberto Galullo, sicuramente ci ritroveremo per affrontare altre questioni così spinose e così importanti. Ultimi istanti della seconda parte dell'ottavo giorno, la voglio dedicare all'economia, perché in settimana, esattamente giovedì, è stato votato al Senato la fiducia sulla manovra. Non è naturalmente il passaggio definitivo, ma insomma siamo sulla buona strada per arrivare alla meta. Vediamo che cosa è stato votato in Senato in questo servizio di Irene Privitera. Una manovra correttiva che influirà sui conti pubblici per quasi 25 miliardi di euro. Ecco le misure principali, a partire da quelle che hanno fatto più discutere, come il blocco degli stipendi statali congelati per 2 anni dal 2011 al 2013 e i tagli delle spese alle regioni, 8 miliardi e mezzo in 2 anni, alle province e ai comuni. C'è poi il fronte delle assicurazioni, con la stangata fiscale da 264 milioni, e quello previdenziale, con due importanti novità: l'adeguamento dei requisiti di pensionamento dal 2015 all'aspettativa di vita media calcolata dall'Istat, e lo scalone unico per le donne che lavorano nel pubblico impiego, che a partire dal 2012 andranno in pensione a 65 anni. Significativo taglio anche per gli stipendi dei manager pubblici, per i ministeri, che disporranno per le spese del 10% in meno, e per le indennità dei magistrati, per cui nel 2010 potranno essere assunti 250 vincitori di concorso. Limitazioni previste anche per le assunzioni a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di polizia, vigili del fuoco ed enti di ricerca. Nuove norme infine per la libertà d'impresa, spesa ridotta per i certificati verdi e aumenti scattati dal 1 luglio dei pedaggi autostradali, con la possibilità per l'ANAS di introdurli anche sui propri raccordi. L'ottavo giorno. Tra poco torneremo a perlustrare la palude di cui stiamo parlando dall'inizio della trasmissione. Lo ricordo, l'espressione l'ho rubata a Michele Ainis, che così ha definito la condizione, lo stato dell'Italia, sulla Stampa mercoledì, in un bel editoriale. Chi vuole naturalmente può andarselo a scaricare da internet. E prima però restiamo ancora ancorati all'economia, come abbiamo fatto nella conclusione della seconda parte. Riascoltiamo, grazie a Maria Caragrandis, le parole di Tremonti e Draghi giovedì pronunciate all'assemblea annuale dell'ABI. Avanti così, perché fiducia porta fiducia. Con queste parole il ministro dell'economia commenta le misure del governo per contrastare la crisi. All'assemblea dell'ABI Giulio Tremonti sottolinea gli aspetti che girano intorno a quella che definisce una buona manovra, migliorata in Senato. Le pensioni stabilizzano il nostro sistema sul futuro, nella sicurezza per le famiglie, e Pomigliano indica che questo paese può non mandare fuori il lavoro, ma farlo tornare. Passaggio di consegne fra l'uscente Corrado Faissola e il neopresidente Giuseppe Mussari all'assemblea dell'associazione bancaria, dove interviene anche Mario Draghi. Accelerare il risanamento dei conti pubblici è il messaggio del governatore della Banca d'Italia, che considera il contenimento dell'evasione fiscale un'importante leva di sviluppo. Per Draghi è inevitabile la manovra economica del governo. Lo scenario tendenziale non era sostenibile. Se la correzione possa effettivamente consentire di raggiungere gli obiettivi di indebitamento netto, potrà essere valutato solo nei prossimi mesi, anche tenendo conto del quadro macroeconomico. Da Draghi arriva anche un'esortazione alle banche, definite pilastro della crescita. Siano più vicine alle imprese, chiede, dicendosi fiducioso sugli esiti degli stress test. Una delle notizie più inquietanti di questi giorni, posto naturalmente che si trovino tutti i riscontri e tutte le connessioni con la politica, è quella che è stata ribattezzata la P3, insomma, che rievoca in modo esplicito lo spettro della propaganda 2 che fu di Licio Gelli. Si tratta di un nuovo filone di inchiesta spuntato fuori dalle indagini sull'eolico in Sardegna, e anche per la P3 direi che la metafora della palude appare calzante, visto il groviglio tutt'altro che raccomandabile tra politici, faccendieri, uomini di legge. Davvero scenari terribili, inquietanti, ripeto, se questa vicenda poi si rivelerà vera, fondata, come sembra, dalle carte processuali. Sentiamo allora i dettagli con Andrea Viari nel GR delle 13 di martedì. Una struttura riservata costituita dal faccendiere Carboni, dall'imprenditore napoletano Martino e dall'ex esponente della DC Campana Lombardi, e poi i due referenti politici, il senatore del PDL Dell'Utri e il coordinatore del partito Verdini, indagati come il sottosegretario all'economia Cosentino, un gruppo impegnato a tramare per pilotare nomine di politici e magistrati amici, ma anche per aggiudicarsi affari milionari. Gli investigatori delineano così la struttura della cosiddetta P3, il sodalizio scoperto dopo ore e ore di intercettazioni telefoniche nel corso delle indagini sull'eolico in Sardegna. L'inchiesta, come prevedibile, scuote anche la politica e alimenta soprattutto le polemiche all'interno del Popolo delle Libertà. I vertici del partito fanno appello al garantismo e rivendicano la presunzione di innocenza per gli esponenti indagati, ma la minoranza che fa capo al presidente della Camera incalza, chiedendo le loro dimissioni, in particolare quelle di Cosentino. E in effetti Cosentino poi mercoledì si è dimesso, evitando così anche uno scomodissimo voto di sfiducia che si sarebbe celebrato la settimana prossima. Cosentino va ad aggiungersi alla lista, per la verità poco lusinghiera, di pezzi grossi del PDL che hanno lasciato i loro incarichi perché coinvolte in inchieste, prima Scajola, poi Brancher, qualcuno vorrebbe anche per l'immediato futuro lo stesso Verdini. Rimane però da spiegare perché Cosentino, che si è dimesso appunto ed è stato convinto a far questo da Berlusconi, da sottosegretario all'economia, sia rimasto comunque coordinatore in Campania, quindi un ruolo di primo piano nel partito. La cosa appare francamente in contraddizione. Tra poco torneremo su Cosentino e sulla partita infuocata all'interno della maggioranza tra Finiani e seguaci di Berlusconi. Restiamo però invece alla P3. Abbiamo in collegamento Domenico Lusi, che praticamente tutta la settimana ha seguito l'evolversi della vicenda. Sta dormendo, se non sbaglio, in procura a Roma. Quasi. Buongiorno Domenico. Buongiorno, buongiorno. Allora, tu hai seguito tutto l'evolversi della vicenda, sicuramente anche nelle prossime settimane ci saranno novità. Io vorrei subito, sì, grazie al tuo contributo, chiarire un dubbio, perché la P3, sì, evoca naturalmente qualcosa di inquietante, di spettrale, di torbido, insomma, Licio Gelli e quant'altro nella storia d'Italia. Berlusconi invece martedì ha liquidato la cosa parlando, al di là del clima giacobino, di quattro sfigati in pensione. Le due cose sono obiettivamente una il contrario dell'altra. Tu che sei lì sul campo, che cosa mi puoi dire? Ti posso dire questo, che anche gli inquirenti, i magistrati che stanno conducendo un'indagine, si rendono conto che la P3 non è la P2, questo è chiaro. Cioè la P2, quando si parla della P2 si parla di un fenomeno, di un cancro che aveva raggiunto praticamente tutti gli organi dello Stato. Quando parliamo della P3 parliamo di una cosa diversa, parliamo di un, su questo ovviamente in base alla ricostruzione dei magistrati e degli investigatori, parliamo di un gruppo di interesse che secondo i magistrati aveva costituito un'associazione a delinquere anzitutto, finalizzata appunto a costituire un'associazione segreta in grado di influenzare decisioni politiche, penso appunto alle pressioni per candidare Cosentino alla presidenza della Regione Campania e i danni di Caldoro, dell'attuale presidente della Regione Caldoro. Nei confronti del quale era stato costruito un dossier diffamatorio, diffamatorio su frequentazioni trans. A riguardo va detto che ieri è stato interrogato qua in procura proprio uno degli artefici di questo complotto, Ernesto Sica, l'assessore campano all'avvocatura, anche lui che è stato poi costretto alle dimissioni, il quale ha negato, però insomma io ho letto anche le intercettazioni, insomma lasciano pochi dubbi al riguardo. Comunque dicevo, insomma, è un gruppo, un gruppo di persone piuttosto allargato che perseguiva appunto una serie di obiettivi: influire su decisioni politiche, influire sulla nomina di magistrati. Nel caso ci sono anche delle telefonate piuttosto esplicite a riguardo, relative alla nomina del presidente della Corte di Appello di Milano, Alfonso Marra, per il quale è stata avviata dal CSM una procedura di trasferimento, oppure appunto il tentativo di intervento su Lodo Alfano. Oppure nomine di funzionari dello Stato che potevano tornare utili per avere permessi, licenze, favori da sfruttare poi a livello economico, come il caso degli impianti dell'eolico in Sardegna. Insomma, era un gruppo di interesse che perseguiva appunto finalità, non si sa poi ancora, non è chiaro per conto per loro oppure anche per conto di terze persone, di influenza su le istituzioni e organi dello Stato e anche l'interesse di perseguire fini di arricchimento personale. Secondo parte rientra proprio in questo ambito. Secondo parte dell'accusa, il beneficiario potrebbe essere il famoso Cesare, lo dico tra virgolette, delle intercettazioni che gli inquirenti identificano addirittura con il premier Berlusconi. Sì, a riguardo ecco, c'è questo Cesare che ricorre parecchie volte, almeno più di una ventina di volte all'interno delle intercettazioni, poi che non sono tutte le intercettazioni dell'inchiesta, quella parte che si sta leggendo in questi giorni sui giornali è solo una piccola parte delle telefonate intercettate, e questo nome ricorre una ventina di volte. In una di queste informative dei carabinieri c'è una nota nella quale si dice che quando gli indagati parlano di Cesare si riferiscono appunto al Presidente del Consiglio. Domenico, ne parlano in questi termini, cioè ne parlano come persona da incontrare a volte, oppure da tenere informata sugli sviluppi di alcune vicende, il caso dello Dalfano. Ovviamente queste sono conversazioni tra gli indagati. Quindi poi vanno tutte verificate, insomma, chiaro, il lavoro dei magistrati e degli inquirenti è ancora lungo e faticoso. Abbiamo ancora un minuto a disposizione, Domenico. Io vorrei sfruttarlo per spiegare ai più giovani, o magari a quelli, e ce ne sono tanti in Italia, che hanno poca memoria, chi è poi il personaggio comunque più famoso e per certi versi anche sinistramente affascinante di questa questione, cioè Flavio Carboni, che ci riporta indietro di tanti anni e a vicende altrettanto oscure. Sì, Flavio Carboni è un imprenditore sardo, spesso sugli organi di stampa viene definito faccendiere, ma lui non ama questo, insomma, essere definito in questa maniera. Lui è stato arrestato la prima volta nell'estate del 1982, da lì in poi è stato un andirivieni tra aule di tribunale e arresti spesso, va detto, annullati piuttosto in fretta poi dalle autorità giudiziarie. Diciamo che a suo carico al momento c'è una sola condanna, 8 anni e 6 mesi per il fallimento del Banco Ambrosiano, e poi lui ha collezionato tutta una serie di assoluzioni che vanno dall'assoluzione dall'accusa di concorso nell'omicidio di Roberto Calvi, per la quale la Procura di Roma aveva chiesto, e lui è stato assolto da pochissimo, qualche settimana fa, aveva chiesto l'ergastolo, ma lui è stato assolto. C'è anche un'altra accusa che è stato assolto, che è quella di essere stato il mandante del tentativo di omicidio di Roberto Rosone, che era il vice di Calvi all'Ambrosiano, e poi è stato assolto anche da altre accuse, false truffe ai danni del Banco di Napoli, dall'accusa di ricettazione della borsa di Calvi che era sparita. Ci sono molte ombre. Anche, sul curriculum. Lui poi si è sempre vantato, poi tra l'altro, di essere stato la persona che ha portato anche il premio a Silvio Berlusconi in Sardegna, cioè di aver introdotto lui Berlusconi in Sardegna. Insomma, è una persona che dalla vita, diciamo, romanzesca. Allora Domenico, ci fermiamo qui sul romanzo di Carboni, tutto ancora forse da scrivere e da spiegare, sicuramente ci saranno sviluppi sulla vicenda che credo non si fermerà qui, e quindi forse per l'estate e anche per l'autunno ne vedremo altre e ne vedremo delle belle. Allora grazie a Domenico Lusi. Noi adesso proseguiamo nell'analisi della vicenda politica di questi giorni, perché abbiamo già ricordato le dimissioni di Cosentino mercoledì, che peraltro rappresentano un po' la coda di una lunga disputa all'interno della maggioranza tra i fedeli di Berlusconi e quelli fedeli a Fini, una disputa che tra l'altro passa per il disegno di legge sulle intercettazioni e che vede coinvolta anche la Lega. Il tutto tra l'altro in questa settimana nella quale si è tornato a parlare di una possibile alleanza con Casini e con l'UDC, quindi un ritorno del grande centro in una cena a casa di Vespa. Sentiamo su tutti questi aspetti che vanno sicuramente tenuti insieme e annodati che cosa ha detto Elisabetta Fiorito ieri mattina nel GR delle 7. Non si placano le tensioni nel PDL, non si placano anche dopo le dimissioni da sottosegretario di Nicola Cosentino. Il partito è sempre più spaccato e le inchieste sulla cosiddetta loggia P3 continuano a mettere in difficoltà la maggioranza. I finiani insistono. Per Italo Bocchino, Cosentino e Dennis Verdini sono coordinatori balneari del PDL, mentre Fabio Granata esulta per le dimissioni. Pesante in indagini legate a questioni complesse e che molto spesso confinano con la criminalità organizzata, non può rivestire ruoli di responsabilità. Ma ad entrare nella disputa è Umberto Bossi, il leader della Lega chiede l'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge sulle intercettazioni in esame alla Camera. Altrimenti, questa la tesi di Bossi, ogni giorno si inventano una P2 o una P6. Sono cose che fanno ridere, ma la gente non vuole essere intercettata. E Bossi promette, Berlusconi ha una spada affilata e la userà. Una resa dei conti probabile con l'ala finiana del partito. L'ottavo giorno. Abbiamo aperto la puntata di oggi parlando della Francia, esattamente della legge anti-burca che è stata votata in questi giorni. Torniamo allora a Parigi e a quelli che sono i problemi che invece affliggono il presidente Sarkozy, in particolare sul caso Bettencourt. Sarkozy è sceso in campo apertamente, si è difeso in televisione. Ci racconta tutto da Parigi Igor Fiatti. Eric Woerth è un uomo onesto, è un uomo competente. Combattivo come d'abitudine, Nicolas Sarkozy ha preso la parola sull'affaire Bettencourt. In un intervento televisivo durato oltre un'ora, il presidente francese ha così parlato delle accuse rivoltegli dall'ex contabile di Lilian Bettencourt. E per Sarkozy, le sue lazioni su presunte bustarelle incassate in casa Bettencourt non sono altro che calunnie. Calunnie che, stando sempre alle parole del presidente, da 3 settimane a questa parte stanno infangando il nome di Eric Woerth, il ministro del bilancio che è al centro di tutta la vicenda. Pertanto Sarkozy ha rinnovato la sua fiducia a Woerth, sottolineando a più riprese che è un uomo onesto e competente. Intanto però, mentre Sarkozy ha comunque promesso un rimpasto di governo a ottobre, le indagini sull'affaire che sta minando la politica francese continuano. In un solo giorno la polizia ha effettuato 7 perquisizioni, perquisendo tra l'altro anche l'abitazione del gestore patrimoniale della Bettencourt. Restiamo ancora nell'ambito degli esteri, perché in settimana è arrivata una storia di spionaggio che ha davvero dell'incredibile. Io personalmente la trovo molto avvincente, molto affascinante. Sentiamo Anna Marino. Ha tutti gli ingredienti della spy story, il blackout di 13 mesi su cui Amiri ha fornito spiegazioni inquietanti. Svanito nel nulla durante un pellegrinaggio in Arabia Saudita nel giugno del 2009, lo scienziato nucleare iraniano è ricomparso misteriosamente martedì nella sezione di interessi iraniana a Washington, l'ufficio che fa le veci dell'ambasciata. Fin dalle sue prime dichiarazioni, infatti, ha accusato i servizi segreti americani e sauditi di averlo rapito, di averlo maltrattato per ottenere informazioni e cercato di corrompere con del denaro e infine minacciato di essere consegnato a Israele se non avesse cooperato. Amiri ha negato sempre di avere a che fare con il programma nucleare della Repubblica Islamica. Le autorità americane hanno invece replicato che lo scienziato era arrivato negli Stati Uniti di sua iniziativa e che liberamente ha deciso di fare rientro in Iran. A complicare tutto l'accoglienza trionfale all'aeroporto della capitale iraniana, in cui Amiri ha fatto il segno della vittoria verso i fotografi per quella che ha definito la sua liberazione. quando arrivo a questo punto della trasmissione che si avvicina la coda alla fine, comincio a fare anche la conta di quello che non abbiamo potuto ricordare tra le notizie importanti della settimana. E allora permettetemi una citazione rapida in ordine sparso di alcuni fatti significativi di questi giorni. Per esempio, dopo 4 anni Castro è riapparso in TV a Cuba e ha anche liberato alcuni dissidenti. Poi, per esempio, alla Sapienza di Roma abbiamo visto una protesta singolare e anche vistosa contro la riforma Gelmini, con esami tenuti all'aperto in giardino o addirittura di notte. E poi c'è quello che, con un titolo ad effetto ma secondo me anche non brillantissimo, è stato ribattezzato il capitolo Uomini che odiano le donne. Ebbene sì, ci sono tantissimi casi drammatici, tragici, di donne uccise da amanti, ex amanti, corteggiatori più o meno scaricati. La scia è davvero impressionante, però a volte fanno anche impressione i commenti su questi fatti. Penso ad una certa sociologia infantile, mi viene da dire, che descrive il fenomeno, oppure il collegamento che è stato fatto da qualcuno all'estate o al grande caldo. Insomma, mi sembra un argomento molto troppo serio e magari forse nelle prossime puntate faremo un approfondimento. Ora invece voglio dare spazio alle novità che sono arrivate in materia di lotta alla pedofilia all'interno della Chiesa. Sono state sancite giovedì dal Vaticano e da Benedetto XVI. I dettagli con Paolo Panceri. La pedopornografia entra nel diritto canonico. La prescrizione per i reati sessuali compiuti da ecclesiastici passa da 10 a 20 anni. Gli abusi sugli handicappati psichici vengono equiparati a quelli sui minori. Il Vaticano inasprisce così le norme per combattere i reati sessuali e manda un segnale chiaro dopo le polemiche sugli insabbiamenti di abusi da parte di sacerdoti. La normativa è stata approvata da Benedetto XVI il 21 maggio ed è stata pubblicata in una lettera indirizzata ai vescovi di tutto il mondo. È un aggiornamento delle norme canoniche sui delicta graviora del 2001, firmata da Giovanni Paolo II. Oltre alla sezione per combattere la pedofilia nella Chiesa, stabilisce norme più dure in materie come l'ordinazione femminile e l'eresia. Le nuove norme inoltre prevedono che nei casi di abusi su minori da parte di preti si deve seguire la legge civile per quanto riguarda la denuncia alle autorità. Sono previste anche procedure più rapide per la dimissione dallo stato clericale di un sacerdote pedofilo e l'introduzione di laici nei tribunali ecclesiastici che si occupano di pedofilia. Stiamo avvicinandoci alla fine di questa puntata e quindi voglio chiudere con lo sport. Questa è la settimana del prodigioso, miracoloso ritorno in pista di Valentino Rossi. Se non sbaglio si era fratturato tibia e perone il 5 giugno, quindi praticamente un mese e mezzo fa, ed è già in pista non per una gita fuori porta ma proprio per combattere, per competere in un GP del moto mondiale. Davvero straordinario, pazzesco questo campione, Valentino Rossi. Però non voglio qui parlare di Valentino Rossi ancora, voglio invece ricordare un fatto sportivo fondamentale di quest'anno, di questi anni, non solo di questa settimana, ovvero la fine dei mondiali di calcio. Domenica, la finale sapete come è andata a finire, la Spagna ha vinto con merito 1-0 contro l'Olanda, quindi io che mi ero esposto a fuori dell'Olanda sono stato sbugiardato dal campo, ma insomma onore alla Spagna che ha vinto con merito 1-0 alla fine di una partita accesa, anche dura negli scontri, soprattutto da parte olandese. Il gol decisivo è arrivato alla fine, agli sgoccioli del secondo tempo supplementare, con quel giocatore fantastico che è Iniesta, forse candidato al pallone d'oro. E allora voglio fare anch'io un piccolo omaggio alla Spagna campione e soprattutto al suo allenatore, che mi sta anche molto simpatico, il compassato quanto vittorioso Del Bosque. Sentite questa elegantissima controcopertina di Gigi Garanzini in onda martedì mattina nel GR delle 7. Ho sempre avuto grande stima e simpatia per Vicente Del Bosque, neo allenatore campione del mondo. Prima elegante mezzala del Real Madrid, poi allenatore di quello stesso club alla cui guida aveva vinto a cavallo del 2000 2 campionati, 2 coppe campioni e una intercontinentale, e da cui lo aveva allontanato Florentino Perez, lo stesso geniale presidente del Real che lo scorso anno, dopo aver speso qualcosa come 250 milioni di euro in giocatori, aveva poi venduto a prezzo di saldo gente come Snyder e Robben. Subentrato Luis Aragonés dopo l'europeo vinto 2 anni fa, Del Bosque ne ha proseguito e raffinato il lavoro. Alla sua maniera educata, composta, sotto traccia, cui non ha derogato nemmeno nella partita che ha fatto la storia del calcio spagnolo. Alla fine, dopo i festeggiamenti, ha chiesto a dirigenti e giocatori un piacere personale: far levare la Coppa del Mondo anche a suo figlio Alvaro, 15 anni, afflitto dalla sindrome di Down. È successo al ritorno a Madrid, durante il ricevimento da Zapatero. Circondato dai neocampioni del mondo, papà Vicente ha consegnato la Coppa ad Alvaro, che l'ha levata al cielo. A tempo scaduto, la più bella sequenza dell'intero Mondiale. Siamo arrivati ai saluti. Prima di chiudere voglio accogliere piacevolmente il suggerimento di un ascoltatore della Romagna, Claudio, che mi ricorda che l'11 luglio, quindi domenica scorsa, è stato il 15° anniversario del massacro di Srebrenica. Ricorderete, migliaia di musulmani massacrati nell'estate del 95 in Bosnia dalle truppe dei serbo-bosniaci di Mladic, il peggiore eccidio di quella guerra terribile dei Balcani, il tutto nell'indifferenza dell'Europa, Italia e italiani compresi, e dei caschi blu dell'ONU che erano lì presenti ma impotenti. Abbiamo finito anche per oggi. Ottavo giorno è radio24.it. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo intorno alle 9. Tutta la settimana siamo sul podcast sul nostro sito www.radio24.it.